la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon martedì 16 di dicembre, giorno di pagamento del saldo di IMU e TASI. E noi ne approfittiamo perché vorremmo capire da voi, con le telefonate, se pagate di più o pagate lo stesso dell'anno scorso, o pagate di meno, c'è anche chi paga di meno. Ma perché questa domanda? Perché tra noi osservatori e soprattutto tra chi osserva l'andamento dell'effetto delle aliquote disposte a livello centrale, nonché delle sovraaliquote a discrezione dei comuni, della IMU e TASI sommate che oggi si pagano a saldo, l'opinione prevalente è che alla fine lo Stato incassa di più del 2013. Adesso riepilogherò le cifre degli ultimi tre anni incassati dallo Stato sul mattone dagli italiani. Ancora ieri, però, in un comunicato ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si dice che il gettito atteso 2014, quindi quello che vi apprestate a rimpinguare se non l'avete già fatto oggi con il saldo a conguaglio di quello che dovete per IMU e TASI, ecco, anche in un comunicato di ieri, del 15 dicembre del MEF, si dice che le entrate attese su base annua nel 2014 dalla somma di IMU e TASI sono esattamente pari a quelle del gettito 2012, cioè 23,8 miliardi. Allora, poiché in realtà moltissimi tra noi stimano che l'effetto delle sovraliquote aggiuntive, vi ricordo 2,6 per TASI fino al 3,3 per 1000 per i comuni che devono rientrare o che avevano particolari esigenze, a patto di prevedere qualche detrazione, il risultato è che ogni comune che ha fatto ricorso al 3,3 per 1000 ha inventato detrazioni diverse, quindi a oggi abbiamo praticamente 8000 aliquote diverse in tutta Italia, quanti sono i comuni, e questa è un'altra ragione di follia, come è evidente. Però secondo la nostra stima, in realtà il MEF e quindi il governo in carica non dicono le cose come stanno sul gettito atteso, perché poiché l'impegno della politica, è vero, era quello di tornare a un incasso come quello del 2012, vedremo perché quello del 2013 era inferiore, noi abbiamo la sensazione che questo il MEF lo dica per tenerci buoni e che in realtà il gettito, di cui i conti precisi avremo solo a 2015 inoltrato, perché nel frattempo abbiamo 8000 aliquote diverse, ciascuna diversamente disposta in ogni comune, sarà superiore di diversi miliardi. Non è proprio così secondario, perché la stima è di diversi miliardi. Adesso vedremo perché. Nel frattempo io vi ricordo quello che è stato l'andamento del gettito dello Stato, quindi sommando gettito dovuto allo Stato per quota di cui i comuni sono stati esattori e quello direttamente incassato dai comuni negli ultimi anni. Se andiamo a vedere dal 2011, ricordo, quindi vigente piena abrogazione del tributo sulla prima casa voluta dal governo Berlusconi dopo il 2008, il gettito di quello che allora si chiamava l'ICI fu di 9 miliardi e qualche cosa. Ecco, dopodiché arriviamo nel 2012, governo Monti, si ripristina la tassazione sulla prima casa, si sommano i nuovi moltiplicatori sulla rendita catastale che da allora sono in vigore, e quindi nel 2012 rispetto al 2011 siamo passati da 9 rotti miliardi a 23,7 miliardi. Ed è esattamente la cifra, come vedete, che il Tesoro anche ieri dichiara di aspettarsi come gettito in questo 2014, e quindi dice noi siamo esattamente come nel 2012 con Monti, piantatela di dire, cari italiani, che state pagando di più. Nel 2013 invece, governo Letta, Letta, effetti della decisione del governo Letta, noi abbiamo una marcia indietro, ve la ricordate, un'intera estate di nuovo sulla prima casa, meno sfavorevole rispetto al governo Monti, e quindi per effetto di queste e di enormi polemiche poi con gli enti locali, i comuni eccetera eccetera, si arrivò anche lì a fine anno prima di capire quanto si doveva pagare, esattamente come quest'anno, ma nel 2013 alla fine l'incasso dello Stato fu inferiore a quello del 2012 che si doveva alla decisione del governo Monti, quindi nel 2013 sono stati 20 miliardi e qualche cosa. Ricapitoliamo, 2011 9 miliardi e qualcosa, 2012 arriva Monti 23,7 miliardi, 2013 con Letta 20 miliardi. 20 miliardi che sono pur sempre più del doppio di quanto lo Stato incassava nel 2011. Questo anno, cioè il 2014, è il terzo anno in cui sono vigenti i moltiplicatori delle rendite catastali, quelle introdotte da Monti. Dopodiché il Tesoro ci dice che in realtà si paga esattamente come due anni fa. Chi avrà ragione? Coloro, io tra quelli, e l'ho scritto, che pensano da mesi che l'incasso sarà considerevolmente superiore per effetto delle sovraliquote a discrezione concesse ai comuni in difficoltà? Oppure ha ragione il Tesoro a dirci che non è vero e che paghiamo esattamente come due anni fa, quindi la piantassimo per favore di rompere le scatole? Ecco, questa è la domanda iniziale che faccio, poi naturalmente chiedendo a ciascuno di voi di chiamare 800 24 00 24 per dire se pagate come due anni fa, meno di due anni fa, di più, dateci la vostra opinione. Qui non si tratta di pregiudizio politico, si tratta di capire che in ogni caso noi abbiamo dal 2011 moltiplicato per più di tre volte l'incasso, secondo me più di tre volte, perché io credo che alla fine saremo 27-28 miliardi l'incasso di quest'anno, però naturalmente mi corre l'obbligo di dire che il governo dice che saranno 23,7. Per aiutarci a districarci in questa questione, in attesa che ci chiamiate, abbiamo con noi il segretario generale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Buon pomeriggio. Mi sente, Spaziani? Sì, buon pomeriggio. Allora, la vostra opinione, visto che professionalmente vi occupate della follia che da anni significa inseguire le variazioni delle aliquote posto per posto sul mattone, è che alla fine del 2014, quindi con quello che gli italiani stanno pagando oggi, sia corretto dire come fa il governo che paghiamo esattamente come due anni fa e non c'è alcun aumento, oppure no? Lei che dice? La nostra opinione è molto simile alla sua, nel senso che intanto chiariamo che quello che dichiariamo, ma l'ha già detto bene, il comunicato di ieri delle finanze del Ministero dell'Economia non è un comunicato contenente dati, ma contenente una stima. Sì, sì. Quindi sono previsioni anche le loro e soggette a rischi, anche perché le delibere sono arrivate in maniera molto disordinata quest'anno e in più le delibere dei comuni, quelle che fissano comuni, davvero quanto si paga. Certamente. E in più è importante rilevare il fatto che quel meccanismo che ricordava giustamente di compensazione, diciamo così, fra maggiore aliquota TASI, quindi quello 0,8 per mille in più, e corrispondenti detrazioni per particolari categorie, è un meccanismo molto molto a rischio, per il quale non a caso era stata proposta dal Presidente della Commissione Finanze della Camera a suo tempo una forma di controllo dei comuni per verificare proprio per consentire ai cittadini di verificare che quella compensazione ci fosse, ma questo emendamento non è passato e quindi bisogna fidarsi dei comuni sul fatto che appunto lo 0,8 per mille in più che abbiano applicato sia compensato da corrispondenti detrazioni. Tutto ciò premesso, le nostre stime di qualche tempo fa, ma che ancora consideriamo valide, sono simili a quelle che lei enunciava prima, cioè noi pensiamo che si arriverà ad un gettito che sarà tra... Noi avevamo dato come gettito massimo 28 miliardi, ma è ovviamente in caso di applicazione di tutti del massimo, ma partivamo da un 24,8 miliardi come minimo. Crediamo che ci si arriverà, perché questo ci dice anche l'esperienza delle aliquote che piano piano poi i comuni hanno stabilito, sia con riferimento all'abitazione principale e sia soprattutto con riferimento agli immobili diversi dall'abitazione principale, case affittate, negozi, uffici. Detto questo, andrebbe sempre ripetuto e va ripetuto, ma ancora una volta l'ha già fatto lei, anche se fosse 23,7 miliardi il dato del 2014, non ci sarebbe nulla da gioire, non ci sarebbe da stare allegri assolutamente, perché parliamo di un carico di tasse che è nettamente, nettamente superiore rispetto al 2011, e non si deve dare per scontato quello che viene ormai dato per scontato. Ancora pochi minuti fa il presidente dell'ANCI Fassino rivendicava l'identità di gettito fra lo scorso anno e l'attuale. Non si deve dare, secondo noi, per scontato il fatto che dalla casa, rispetto ai 9 miliardi e poco più del 2011, solo a livello locale debbano ora arrivare almeno 24 miliardi, quasi più del doppio, appunto, più del doppio. 2011. Allora, a questo aggiungiamo, poi passiamo alle vostre telefonate, che faremo commentare a Giorgio Spassani Testa, che il governo vi ha detto l'altro ieri che bontà sua ha sospeso in legge di stabilità l'aumento ulteriore che era prevista per l'aliquota TASI dall'inizio dell'anno prossimo, perché poteva passare dal 3,3 per mille, vi abbiamo spiegato, quest'anno concesso solo ai comuni che applicavano una qualche detrazione, fino quasi a raddoppiare al 6 per mille. Questa cosa è stata annunciata dal governo, ripetuta dai giornali, come gli italiani devono sapere che non aumenteranno le tasse sulle case l'anno prossimo. Attenzione! Perché siccome il governo ha un accordo con l'ANCI per introdurre nel 2015 la local tax, virgola, l'ANCI ufficialmente ha chiesto per la local tax un incasso di almeno 31,5 miliardi di euro rispetto ai 23,7 che dice il Tesoro saranno quest'anno, uguale a quello di 2 anni fa, ai 25 come minimo che stimiamo noi, ma l'accordo con l'ANCI è di fare la local tax non in legge di stabilità ma più avanti. Attenzione, fatevi i conti cari italiani, perché vi potrebbe arrivare tra marzo e aprile la nuova imposta che modificherà ulteriormente quella che si chiamava l'ICI e poi è diventata l'IMU, poi l'IMU più TASI, IUC, eccetera eccetera, diventa la local tax complessiva di tutto, con un ulteriore aumento che a quel punto il governo dirà beh, che ci possiamo fare, sono i comuni che ce lo chiedono. Attenzione, perché questa nell'agenda politica c'è, non fidatevi del fatto che non ci sia in legge di stabilità, perché l'accordo non è ancora chiuso, però quelli dell'ANCI dicono lo chiuderemo, l'impegno del governo, e c'è un ulteriore aumento perché si tratta di riequilibrare, non in legge di stabilità, poi i tagli chiesti ai comuni intanto in legge di stabilità, quindi attenzione perché potrebbe ulteriormente aumentare. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta, stiamo parlando di quanto gli italiani pagano oggi, cioè il saldo IMU TASI, la stima del governo, si paga come 2 anni fa, non di più, la stima di Confedilizia e di tanti giornalisti che tecnicamente seguono l'imposizione immobiliare, no, si tratta di almeno un paio di miliardi in più, la promessa del governo, ma vi evitiamo l'aumento di aliquota l'anno prossimo, pagherete uguale, invece l'accordo che l'ANCI dice di avere in agenda per il 2015 per la local tax, che significa farlo aumentare di altri miliardi. Leggiamo un po' di messaggi arrivati da parte vostra con i numeri e poi le telefonate. Allora Luca intanto ci dice continuo a essere convinto che questo cambio continuo di sigle, nomi, scadenze sia fumo negli occhi per coprire gli aumenti di cui parlate. Altro ascoltatore: rispetto a 2 anni fa ho pagato quasi il doppio, probabilmente perché da me manca detrazione prima casa. Poi, nel mio piccolo, dice un altro ascoltatore, Ale da Imola, la TASI è uguale all'IMU, la quale da sola era di qualche euro più alta dell'ICI. Il conto, fatelo voi, come vedete, è in crescita. Un altro, Nico, 2012 ho pagato 150 euro, nel 2014 310 euro e la mia casa è rimasta uguale. Venezia, un altro ascoltatore, appartamento classe A3, quindi medio-bassa, ho pagato il doppio rispetto a 2 anni fa. Anche qua le detrazioni inferiori vengono lamentate. Sentiamo un pochino l'opinione di chi ci ha telefonato. Cominciamo con Francesco da Prato. Prego, Francesco. Sì, buonasera. Sì. Io volevo portare il mio caso. Sì. Io sono proprietario di un piccolo appartamento comprato negli anni 90 di 70 metri quadri con un piccolo garage. E quest'anno l'IMU, il Comune di Prato, ha liberato l'aliquota massima del 10,6. La mia IMU risulta 1.600 euro, che rispetto agli anni scorsi è quasi raddoppiata. Tenga presente che su questo appartamento, che ho la fortuna di aver affittato, ci pago anche le tasse di cedolare secca. Quindi fra cedolare secca e IMU, 5 mesi di affitto vanno per le tasse. Bene, grazie Francesco, quindi anche lui ha pagato di più. Sentiamo Andrea da Biella. Buonasera dottore. No, Giannino. Guardi. E basta, grazie. Vada. Porto il mio caso che è diciamo, un po' diverso da quello dei suoi ascoltatori diciamo tradizionale sì. Quest'oggi. Io sono proprietario di diversi immobili, quindi sono uno di quelli fortunati. Beh, è fortunato lo Stato con lei quindi. Sì, assolutamente sì, soprattutto dopo che è andata via l'ICI e che è arrivata l'IMU. Io pago in doppia cifra diverse migliaia di euro all'anno e rispetto a quando c'era l'ICI siamo tranquillamente più che duplicati. Il problema non è quello che pago io di IMU che è aumentata o quello che vogliamo, il problema è che il valore del mio patrimonio immobiliare non è raddoppiato come la tassa, è meno della metà. Se io vado da una banca e gli dico, senti banca, voglio fare un investimento nelle rinnovabili prima che decidessero anche di cambiare le carte in tavola durante il gioco, e vabbè lasciamo stare, cos'hai da garanzia? Ho degli immobili, no, gli immobili tientili tu, a noi i tuoi immobili ne abbiamo già troppi sulla schiena. Già. Ecco, questo è l'effetto prima di Monti, poi di Letta, poi di tutti quelli che vogliamo, anche se bisogna essere sinceri, il primo ad aver creato il danno per motivi elettorali, è stato Berlusconi, il quale per togliere l'ICI alla prima casa, adesso l'abbiamo pagata, anzi, sono 3 anni che la paghiamo con gli interessi. Andrea, io sottoscrivo tutto quello che sta dicendo, però sa, siamo in pochi a ricordarcela così, comunque, però è un fatto, ha fatto bene a ricordare anche il precedente, per così dire. Francesco da Genova, prego Francesco. Pronto, salve. Allora, io... devo dire, ho pagato abbastanza poco, sì. Nella mia 50% 19 euro, molto probabilmente perché sono in una casa piccola, siamo una famiglia piccola con un bambino a carico e pertanto probabilmente siamo dei pochi fortunati che hanno questo tipo di agevolazione. Ma io la ringrazio per avercelo segnalato perché effettivamente ho già detto all'inizio, non è che tutti sempre hanno solo pagato esatto. Di più. Quindi... Poi se vogliamo fare un bilancio complessivo personale nei confronti del governo Renzi, io mi trovo abbastanza soddisfatto, anche se poi come contribuente su quelli che sono i lussi, cioè la macchina da collezionista, queste cose così, ci andrò a perdere. Però mi sembra che dovremmo anche importare un ragionamento su una logica di equità. No, giusto Francesco, ricordiamoci che quando si fa un aumento così verticale della tassazione sugli immobili, gli effetti sono sia sul mercato delle compravendite sia sul valore medio. Allora, siccome il valore medio nel pre-crisi, anzi quando fino al 2011, quando è scoppiata la vera crisi, quella della solvibilità dei debiti pubblici, no? Dal 2008-2011 abbiamo una crisi che veniva fuori da quella internazionale, dal 2011 c'è una crisi italiana aggiunta. Dal 2011 a oggi, se andiamo a vedere quello che è successo sul mercato delle compravendite, c'è una perdita di un terzo. Se poi andiamo al pre-crisi, al pre-2008, le compravendite oggi sono più del 50% in meno. E se incorporiamo gli effetti della diminuzione di valore su quello che era il primo investimento nel portafoglio delle famiglie italiane, cioè il mattone, e la stima era fino a 5.800, 6.000 miliardi di valore del mattone nel portafoglio delle famiglie italiane, e ci applichiamo in termini reali la diminuzione del valore avvenuto per effetto di questo verticale aumento della tassazione, è come se l'effetto fosse stato tale da portare 1.000 miliardi in meno di valore del patrimonio immobiliare nelle tasche degli italiani per ottenere un passaggio di gettito che è da 9 e rotti miliardi a 23,7 dice il governo, noi diciamo 25, e in buona sostanza per avere un bel po' di decine di miliardi in più sommate in questi anni incassati, però l'effetto sul valore della proprietà degli italiani è 1.000 miliardi in meno. Voi direte un valore potenziale? Eh no, perché chi deve vendere incorpora la diminuzione del valore, altro che, come si vede dal fatto che infatti le compravendite sono scese del 50% rispetto al pre-crisi. Allora, secondo me è giusto, prima di pensare a qualche decina di miliardi di euro, che non sono pochi, di incassi, farsi conto di quello che succede se tu tocchi in questa maniera quello che sta nelle tasche degli italiani, non solo nei flussi, cioè nei redditi, quanto si paga l'anno, ma nel valore, visto che è il primo valore nella tasca degli italiani, gli immobili, molto più dei titoli obbligazionari o azionari o anche dei titoli del debito pubblico, e invece questo conto non c'è stato. Sentiamo Giampiero da Piacenza. Giampiero, prego. Sera. La mia situazione è uguale a quella di Andrea, ne ho parlato prima. Io ricordo che di ICI ho pagato 500 euro, di IMU, TASI, TARI e vari economi vari, arrivo a 2.200. Ah. Il problema è che un altro che mi spaventa è l'aumento a 6 per 1000 della TASI da 2016 e poi l'adeguamento dei valori catastali che saranno quadruplicati. Bravo, perché quella è l'altra cosa in arrivo. Il problema è che poi questi scienziati qua con la testa grossa e con dentro niente, no, loro certe cose, queste cose non te le dicono. Poi dicono no, la tassa è sempre 3 per 1000, però se tu produci. Sentiamo, no, è chiaro, chiaro. Sentiamo Spaziani Testa in conclusione cosa si aspetta per il 2015. Mi aspetto i rischi di quali parlava lei negli accordi fra comuni e governo, noi lo diciamo sempre, ascoltiamo anche i contribuenti. Bravo. Non solo due enti tassatori come sono il governo e l'ANCI e i comuni, ascoltiamo anche i contribuenti e cerchiamo di capire quali sono le loro esigenze. E poi diciamo qualcosa di fondamentale, stiamo parlando, e lo dimostrano queste telefonate tutte interessanti, di una tassazione patrimoniale, non bisogna mai dimenticarlo, è una tassazione patrimoniale che si aggiunge a tutte le altre. Grazie. I cittadini hanno dei redditi già tassati anche sugli immobili. Esatto, grazie Spaziani Testa, lo sa Spaziani Testa che io sono particolarmente attento alle tasse patrimoniali, ma un po' a tutte, perché aumentano tutte. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani. Fatti guidare da chi conosce la strada. UBI Pramerica, da sempre al servizio dei tuoi investimenti. Vi ha presentato la versione di Oscar.